Vorrei capire da Donato Robilotta, che saluto, buonasera. Buonasera. Come sta Robilotta? Bene, bene. Lei è consigliere bene. Regionale PDL in scadenza, sì. Nel Lazio naturalmente. E allora quanto ce l'ha con quest'uomo lei? Me lo dica, perché doveva essere candidato, in che posizione nella lista? No, Robilotta? Io non ce l'ho con quell'uomo che conosco da molti anni. Ce l'ho, come dire, con un gruppo dirigente che non si rende conto che un grande partito non va a consegnare le liste per l'elezione generale mezz'ora prima, punto. Senta, allora, dato che ci... responsabilità di governo le va a presentare come facevano i grandi partiti, la Prima Repubblica, il giorno prima. Oh, Robilotta, però lei è uno dei pochi che dice le cose, come dire, senza parlare di complotti, di giudici che non hanno voluto accettare la lista, di carabinieri un po' troppo zelanti, eccetera, eccetera. Dunque lei dice la responsabilità principale è nostra, cioè quella dell'organizzazione di un partito che si è presentato alle 11:30, questa è la sostanza. Sì, i nostri hanno pasticciato, può capitare, perché... può capitare qualsiasi evento, ma può capitare pure che uno mentre rappresenta la lista si rompe la macchina, può capitare pure che uno si sente male, che deve andare al bagno, che gli viene un malore, cioè può capitare qualsiasi cosa, quindi uno che è responsabile non va a mezz'ora prima o non manda i propri delegati mezz'ora prima a presentare la lista, ci va molto tempo prima. Detto questo, sì. Io come dire... faccio ammenda di un gruppo dirigente pasticcione, sì. Però per qualsiasi pasticcio i nostri avessero com'è. Detto questo, non è che viene meno l'esigenza, come dire, di avere sulla scheda laterale il più forte partito. Vabbè, questo è un altro discorso, però Robilotta. Ormai le cose stanno come stanno, è inutile andare a vedere la questione dei ricorsi, come è andato, vedremo come la cosa, anche secondo me è una situazione abbastanza anomala, questo è evidente a tutti, però lei concorderà sul fatto che se ci sono delle scadenze, queste scadenze vanno rispettate, altrimenti uno cambia le regole, siete voi che le potete cambiare, via, o no? Sì, guarda, lì si è trattato un pasticcio, perché lì poi... No, io sono... Le regole vanno... Le regole. Senta, Robilotta, ma il pasticcio l'ha fatto Milioni oppure l'incertezza ancora sui posti in lista? Me lo dica sinceramente. Il pasticcio l'ha fatto chi l'ha mandato alle 11:30, punto. E perché è stato mandato alle 11:30 e non prima? Perché c'erano ancora delle cose da concordare. Guardi, sarebbe bastato che rispettare lo statuto del popolo del partito a cui mi sono aderito, Popolo delle Libertà, che prevede che le liste vengano approvate dal comitato regionale per evitare qualsiasi... E invece che è successo? Purtroppo questo non è accaduto e quindi... C'è stata una guerra di fazioni per mettere i propri in lista? No, secondo me hanno pasticciato, magari fosse stata una guerra di fazioni, già sarebbe qualcosa come... E chi ha pasticciare che significa, Robilò? No, quando hanno pasticciato su qualche foglio che era apposta, avevano come dire... probabilmente avevano un qualche elenco ancora da terminare, ma insomma qualsiasi pasticcio è andato a finire così, quindi...